vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 luglio, il sole in regione sorto alle 5.23 tramonterà alle 21.01, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Quello della legna da ardere è un settore dai grandi numeri, in espansione e quotazioni stabili. Allo stesso tempo, in Italia e anche nella nostra regione, non riusciamo a garantire i quantitativi richiesti per il consumo interno. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi alla coltivazione della camelina, una crucifera versatile e promettente quale alternativa nelle rotazioni agrarie. Degli altri prodotti storici ottenuti dall'uva oltre al vino si parla nella storia che dedichiamo a questa bevanda, mentre la rubrica delle piante fotografa il rododendro, pianta di rara bellezza con tante altre caratteristiche importanti. Passando all'universo suino, puntata quella di oggi dedicata al camarin, ovvero la cantina di conservazione, luogo strategico per la buona riuscita di ogni prodotto. Di funghi e rosmarino si parla invece nella rubrica della gastronomia, in un abbinamento perlomeno insolito. Andamento dei mercati, previsioni del tempo, con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. Giugno-luglio un tempo erano mesi dedicati anche all'approvvigionamento della legna da ardere, una pratica andata un po' in disuso che però sta tornando. Oggi con Emilio Cottardo, che è il presidente della cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo, che concorre alla formazione del prezzo anche della legna da ardere, parliamo di questo mercato, delle sue potenzialità e delle sue contraddizioni. I prezzi sono sostanzialmente stabili nonostante il Covid, nel senso che oggi si vendono al cliente finale la legna da ardere a 130-140 euro a tonnellata, parliamo del faggio in particolare, ma insomma più o meno tutte le latifoglie da brucio. Al produttore questi 140 euro in realtà significano 65-67 euro a tonnellata, diciamo, al boscaiolo. Il trend di produzione è costante o forse leggermente in calo dai dati ricavabili da alcune indagini Istat 2013 e ARPA Nord Italia 2018, che consegnano comunque per la nostra regione un dato oscillante intorno alle 500.000 tonnellate di legna da ardere all'anno. 500.000 tonnellate vuol dire praticamente il triplo di quello che noi utilizziamo nei nostri boschi, quindi questo significa che c'è una quantità di importazione significativa. Non siamo capaci di farci più neanche in casa la legna d'ardere? No, perché comunque i consumi anche, diciamo, di persone o di famiglie che non vivono nelle zone montane o collinari interne è in crescita nelle città e altrove, e quindi questo determina di per sé un aumento del mercato. E come è suddiviso l'approvvigionamento? Su un totale nazionale di oltre 17 milioni di tonnellate all'anno di legna da ardere, circa 8 sono autoprodotte. Il restante 8,5 milioni di tonnellate sono ripartite tra un'attività in sommerso e un'attività in chiaro. Grosso modo, anche qua possiamo dire che 75-80% del tutto quello che non è autoprodotto viaggia in un mercato sotterraneo. Questo vuol dire quindi perdita di IVA e perdita di IRPEF, di tasse sul reddito delle aziende, significativo, importante, per cui io credo, e non solo io, che il governo dovrebbe metterci una pezza, perché è importante portare in chiaro un mercato così vasto, così ampio, non solo e non tanto per gli aspetti finanziari, ma anche per gli aspetti di sicurezza degli operatori, di trasparenza del mercato e quindi anche di miglioramento della qualità del prodotto. Abbiamo parlato di sicurezza. Ultimamente le stufe a legna sono un po' criminalizzate in quanto ritenute inquinanti. Il problema dell'inquinamento da polveri sottili esiste, è stato affrontato, ma non può essere affrontato semplicemente tout court con un divieto di utilizzo delle stufe. È vero che le stufe classiche sono ancora la maggioranza, ma oggi il mercato e la tecnologia offrono strumenti e macchine altamente specializzati per l'abbattimento delle PM10. Si sta lavorando anche sulle PM2,5. Il mercato della legna d'ardere potrebbe essere un valido supporto economico anche per chi lavora nei boschi nella nostra regione, e perché non si fa? Potrebbe esserlo sicuramente, perché è comunque, come ho detto, un bene il cui valore di mercato è stabile, e questo potrebbe essere una fonte di lavoro e di attività per ulteriori boscaioli, in una logica di territorialità e quindi anche di reti di scambio territoriali tra chi produce il legno e chi lo consuma. Oggi per la rubrica del bio Cristina Micheloni ci parla della camelina, una crucifera che ci aveva presentato qualche mese fa. Dopo la semina di ottobre, giorni fa c'è stato il raccolto e ci racconta come si è andata questa prima esperienza. La camelina è una crucifera, quindi un parente del colza, un parente un po' più rustico del colza. È una coltura che ha ciclo autunno-invernale, ma si può seminare anche in primavera. Noi però ci siamo concentrati sulla semina autunnale, che abbiamo effettuato più o meno a metà ottobre. Il ciclo è un po' più breve del colza, quindi si semina in ottobre e si raccoglie all'inizio di giugno, poi causa pioggia siamo andati qualche giorno più tardi, e questo rende possibile ad esempio una doppia coltura con la soia. Resiste bene alle basse temperature quando è allo stadio di 4-5 foglie, quindi questo ci impedisce di seminarla troppo presto, perché altrimenti arriva al momento teoretico del freddo in una fase troppo avanzata, e resiste bene anche ai periodi siccitosi. Non ha una grande richiesta di sostanze minerali quali azoto, fosforo e potassio, quindi ben si adegua anche alla coltivazione in biologico. Ci sono delle cose che non sopporta: il ristagno non sopporta di tenere le radici all'umido, e questo è stato un problema proprio perché, se vi ricordate, l'ottobre scorso è stato un mese piuttosto piovoso che ha costretto alcune zone dove l'abbiamo seminata a rimanere nell'umidità. Non copre il terreno molto velocemente, quindi le malerbe possono diventare un problema. Avendo un seme molto piccolo ha una sensibilità alla profondità di semina e non è semplice distribuire il seme essendo così piccolo. Abbiamo provato anche a strigliarla, lo sopporta bene, non è efficacissima contro le malerbe, ma insomma si può fare. Non è così frugale come descritto, ovvero un po' di concimazione organica, ovviamente tramite compost, tramite letame o tramite i prodotti pellettati organici, sicuramente va consigliata. Ci sono delle belle varietà disponibili e c'è una grande diversità fra le varietà, quindi è già possibile cominciare a dire non solo coltivo la camelina, ma anche mi concentro su una certa varietà della camelina. Alla trebbiatura bisogna essere molto pazienti e munirsi di una trebbia adeguata. Cosa ce ne facciamo poi di questa camelina? Noi l'abbiamo trasformata in olio, ovviamente per pressione, per rispettare le regole del biologico, che ha un contenuto di omega 3 e di antiossidanti molto interessante, molto più simile per esempio al grasso del pesce, quindi molto più salutare, il rapporto omega 3 e omega 6 è molto più vicino alla composizione del grasso del pesce. E quello che avanza, che si chiama pannello, quello che avanza dalla spremitura, ha un utilizzo zootecnico, e la cosa interessante è che anche nel pannello rimane questa grandissima dotazione di antiossidanti che viene trasferita all'animale che lo mangia, in questo caso le galline ovaiole, e che a sua volta ritorna fino alle uova. Diventa quindi una coltura interessante in campo, ma anche una coltura interessante a livello economico e di utilizzo. Fin dall'antichità dall'uva non si ricavava solo il vino, ma anche una serie di altri prodotti strategici, soprattutto in cucina. Ci dice tutto il professor Roberto Zironi con la sua storia del vino. Sino dall'epoca romana e continuando durante tutto il Medioevo, l'uva era utilizzata non soltanto per produrre vino, ma per produrre tutta una serie di condimenti. Uno di questi, ad esempio, è l'agresto, che era un condimento ottenuto dalla spremitura delle uve acerbe e che già i romani identificavano con un prodotto che, oltre ad essere utile per le produzioni alimentari, era anche utile nella farmacopea. Questo uso dell'agresto è continuato anche nel Medioevo, non soltanto in Italia, ma ad esempio in Francia, dove era conosciuto col nome di Verjus, ed era talmente popolare che nell'opera, diciamo, più importante della cucina medievale, il viandier del Taillevent, che era un cuoco di un re di Francia intorno al 1350, l'utilizzazione dell'agresto nel 42% delle ricette. Se andiamo ai giorni nostri, praticamente non se ne parla più, e già, diciamo, nella più importante trattato italiano, il Trattato dell'Artusi, alla fine dell'Ottocento, si cita una sola ricetta con l'utilizzazione dell'agresto. Oggi dell'agresto è rimasto soltanto un modo di dire, far la cresta, che è una contrazione del far l'agresto, quando i contadini, oltre a raccogliere le uve acerbe per produrre questo prodotto, prendevano dal padrone anche parte delle uve mature e quindi in qualche modo ne avevano un illecito guadagno. Oltre alla componente acida, era molto apprezzata dai romani e in epoca medievale anche la componente dolce. Si utilizzava in particolare il mosto cotto per produrre due tipi, diciamo, di prodotti: il de frutum, quando era ridotto di un terzo, diciamo, del contenuto in acqua, e quando era concentrato il doppio, quindi ridotto della metà dell'acqua, prendeva il nome di saba o di sappa. Questo prodotto lo troviamo ancora in alcune regioni italiane come gradevole prodotto alimentare in combinazione con una serie di cibi. Ma in epoca praticamente antica, il prodotto derivato dell'uva più famoso dopo il vino era sicuramente l'aceto. Se mettiamo insieme la storia dell'aceto e la storia del mosto cotto, troviamo ad un certo punto in epoca medievale la comparsa di un aceto speciale chiamato aceto balsamico. Gli estensi fecero grande questo prodotto e oggi tutti lo conosciamo perfettamente, perché è presente, potremmo dire onnipresente, su tutte le nostre tavole e nella ristorazione, ed è un prodotto che vale oggi 100 milioni di litri di produzione. In montagna, quando è fiorito, crea panorami di incomparabile bellezza, e il rododendro, che abbina alla bellezza una serie di caratteristiche importanti, come ci racconta oggi Antonino Danelutto. In questo periodo le montagne della Carnia, oltre il limite della vegetazione arborea, si infiammano di rosso. Sono gli arbusti contorti del rododendro ferrugineo che, dopo aver sopportato a lungo la coltre nevosa che ha protetto le sue gemme dal gelo, ha riacquistato vigoria e ora finalmente può affrontare una nuova stagione facendo bella mostra di sé. Il rododendro ferrugineo, o rosa delle Alpi, nome scientifico Rhododendron ferrugineum, in friulano flor di mont, rose di mont, è un piccolo arbusto sempreverde alto solitamente 50-70 cm o poco più, che cresce su terreni acidi e forma cespugli dai rami fragili e tortuosi. Le sue foglie sono ellittico-lanceolate, intere, superiormente verdi e lucide, inferiormente rugginose per la presenza di numerosissime squame ghiandolate. Il loro margine è ricurvo verso la pagina inferiore. Le infiorescenze terminali sono profumate, la corolla è in buttiforme a 5 lobi rosso purpurei, talvolta pallidi, raramente bianchi. Tutta la pianta è velenosa. Si suol dire che è la dose che fa il veleno, tant'è che la medicina popolare impiegava rischiosamente pochissime foglie come diuretiche sudorifere e alcuni fiori come antiaromatici. Il principio attivo più importante della pianta è la graianotossina, presente pure nel nettare e quindi responsabile dell'intossicazione da miele, da noi però abbastanza rara. Sulle foglie del rododendro si possono formare delle galle provocate da funghi o parassiti. Comune è quella voluminosa del fungo Exobasidium rhododendri, ricca di tannini e utilizzata come astringente. Se si lasciano macerare per 15 giorni 50 grammi di galle in un litro d'olio ricavato dai semi di Prunus brigantina, un arbusto alberello delle Alpi Marittime Cozie chiamato volgarmente marmotta, si ottiene il cosiddetto olio di marmotta, che nella medicina popolare viene tuttora usato per frizioni antireumatiche. Il fatto che tale olio si chiamasse curiosamente in questo modo ha provocato nel XIX secolo una ingiustificata e spietata caccia alle marmotte nella convinzione che fosse il loro grasso ad avere proprietà antireumatiche. Anche il rododendro irsuto, Rhododendron hirsutum, che vive soprattutto sui terreni calcarei di Alpi e Prealpi Giulie e che ha foglie con ciglia rigide sul margine e non ferruginose di sotto, ha effetti benefici analoghi. Infatti è stato appurato che gli animali da pascolo rimangono intossicati dopo ingestione di foglie di entrambi i rododendri. Penultima puntata oggi con Adriano Del Fabbro per Cronache Suine, ovvero il mondo del maiale e dei suoi prodotti. Prodotti che necessitano di un buon camarin, detto in friulano, una buona cantina per la migliore riuscita. E qual è? È il camarin, il locale di stagionatura, diverso dalla cantina del vino e da quella dei formaggi. Dicevano i nostri vecchi che nel camarin devi entrarci ogni giorno nei primi 2 mesi della stagionatura e ancora il salame come una donna, devi toccarlo sempre per controllarne la consistenza. Il camarin migliore era semibuio, collocato nella parte esposta a nord dell'abitazione. Aveva una piccola finestra con una rete protettiva che impediva l'ingresso degli insetti e il pavimento ribassato in terra battuta. Si formava così la giusta umidità nell'aria che consentiva consentiva lo sviluppo delle muffe sulla superficie degli insaccati. C'era una reazione costante e dolce, senza correnti. I salami, ben distanziati uno dall'altro, venivano appesi a delle aste di legno solide, dritte e pulite. La prima muffa verde veniva lavata con uno straccio imbevuto d'aceto. Subito dopo, sulla superficie del budello naturale, si sviluppava una muffa bianca, che era quella decisiva per la buona maturazione. In quel locale fresco e silenzioso non succedeva mai nulla. Entrando si varcava la soglia di un nuovo mondo, profumato e ovattato, un santuario dell'abbondanza assai rispettato e in nessun caso violato da urla o eccitazioni inutili. Una grotta di stalattiti carne che pendevano dal soffitto. All'ingresso non c'era scritto, ma si sapeva che era vietato ai minori. La chiave della porta stava ben custodita nella tasca del grembiulone della nonna, che possedeva pure, a memoria, la mappa dei tesori. In una parte della stanga i salami freschi, più in là quelli stagionati. Su quella tavola la baffa del lardo, su quell'altra il vaso dello strutto. A destra erano appese le ossa per prelevarne alla bisogna il midollo, a sinistra, nel moschiar, pancette, ossocolli e soppresse. Inizia la stagione dei funghi e oggi Roberto Zottar, che ci cura la rubrica gastronomica, propone un abbinamento un po' insolito, porcini e rosmarino. È arrivato il caldo e dopo le abbondanti piogge sono apparsi sui nostri mercati i primi porcini. Il Boletus edulis è da sempre un grande protagonista in cucina, sia cotto, sia crudo o essiccato. Il suo habitat sono i boschi di abeti, querce, castagne e faggi e il suo cappello può avere varie tonalità di color castagna. Gli intenditori suggeriscono di non lavare mai i funghi, limitandosi a ripulirli dal terriccio, ma io di nascosto li passo con una pezzuola umida. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, fu il primo a descrivere dettagliatamente caratteristiche e qualità dei funghi, mentre il suo contemporaneo Marco Gavio Apicio ne codificò una serie di ricette nel De Re Coquinaria. Sui funghi ci sono sempre state però false credenze, tanto che il maestro Martino da Como, cuoco del patriarca di Aquileia, a metà del 400 scriveva «Netta li funghi molto bene e falli bollire in acqua con 2 o 3 capi d'aglio e una mollica di pane, e questo si fa perché da natura sono venenosi. Da poi cavagli fora e lassa ben colare quell'acqua in modo che restino asciutti e da poi friggili in buono olio in lardo e quando sono cotti mettetevi sopra le spezie. A mio avviso i porcini sono stupendi, gustati in ogni modo, anche se tradizionalmente spesso si fanno trifolare in olio e come recitano i sacri testi con nepitella selvatica, un'erba simile alla mentuccia romana, anche se spesso io metto solo prezzemolo. Premetto che forse per abitudine non mi appassionano proposte tipo mare monti, cioè scampi con funghi o anche porcini con il pomodoro, perché credo che ogni prodotto si debba legare con il proprio territorio. Istintivamente per me il rosmarino è una pianta mediterranea e non di montagna, e quindi mai coi funghi. Ma vi racconto di una gustosa scoperta fatta anni fa in un'allora trattoria, oggi ristorante, in località Paradiso di Pocenia. Il problema della cuoca era come servire funghi crudi senza che per qualcuno questo fosse fonte di problemi per una loro lieve possibile tossicità che scompare con la cottura. Il suo colpo di genio è stato di scottarli velocemente in burro e rosmarino e il mio di osare assaggiarli. Tagliate i porcini a bastoncini o a lamelle e saltateli per un minuto o poco di più in burro spumeggiante, dove avrete lasciato soffriggere un ramo di rosmarino e volendo uno spicchio d'aglio. Salate, pepate e servite con scaglie di montaggio stravecchio e volendo una fetta di polenta alla brace. Vi riconcilierete certamente con il mondo e vi ritroverete proprio in paradiso. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento diversificato venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine avvenute ancora attraverso videoconferenze. Il mais comunità 14% è stato quotato tra 17 e 17,20 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo con peso specifico 60-63 tra 13,50 e 14 euro. Il frumento tra 16,70 e 17 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 30 centesimi e l'orzo diminuito di 1,80 euro al quintale. Andamento stazionario radio nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,40 e 2,20. Si registrano invece segnali di ripresa e aumenti nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6,20 e 6,60 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,70 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,10 e i bruni tra 1,60 e 1,90. Tendenze difficili invece nel comparto suinicolo, con il valore della tondola di 30 kg franco partenza fissato a 2,15 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,10 il chilo. Domanda stabile nel settore caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Per quanto riguarda il prezzo del latte di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, la commissione della Camera di Commercio di Pordenone e Udine lo ha quotato francostalla a 36,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora cenni di pesantezza rilevati dalle quotazioni dell'Alta Italia, dove i poli a terra vengono pagati tra 0,87 e 0,92 euro il chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,16 e 1,20, le anatre tra 2,07 e 2,11, le faraone tra 1,90 e 2 euro, i conigli di oltre 2,5 kg tra 2,23 e 2,29, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 17,43 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Giugno si è concluso con un bilancio in controtendenza rispetto a quanto si è osservato nelle ultime decadi. È stato un mese fresco ed estremamente piovoso. Le temperature medie giornaliere, prendendo come riferimento la pianura, sono state al di sotto della norma fino al giorno 20. Poi, con andamento ad altalena, abbiamo avuto giornate un po' più calde. La media mensile è risultata di 1,2 gradi inferiore rispetto all'andamento tipico degli ultimi 20 anni. La giornata più calda è stata il 22, con massime fra 32 e 33 gradi, valori decisamente più moderati rispetto agli anni scorsi, quando si erano toccati già i 37-38 gradi. L'elemento più rilevante è stata la quantità di pioggia, misurata dai 200 mm della costa ai 300 della pianura, fino a oltre 600 mm nelle valli del Natisone, con episodi giornalieri molto intensi, specie il giorno 6. L'elevata piovosità del mese di giugno era un elemento tipico nella climatologia storica della regione, ma che si è decisamente attenuata negli ultimi 20 anni, con l'arrivo sempre più massiccio e anticipato delle masse d'aria tropicali. I valori cumulati di pioggia di quest'anno sono molto significativi, dal doppio della pianura fino al quadruplo della norma sulla costa e sulla fascia pedemontana, e giugno 2020 va così in vetta alla classifica, almeno a partire dal 1961, superando anche il 96, quando vi fu l'alluvione a Pontebba in Valcanale. Ora il tempo è stabile, con correnti settentrionali asciutte in quota e le temperature massime oggi e domani saranno intorno a 32-33 gradi in pianura. Domani sera però arriverà un veloce fronte dalla Germania che provocherà instabilità, specie nella notte successiva, con rovesci temporali. Martedì l'ingresso di Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa, porterà fresco, con un calo di 7-8 gradi delle temperature massime. Ancora pioggia al mattino, poi il tempo migliorerà. Mercoledì avremo tempo stabile, con cielo sereno poco nuvoloso, buona moderata al mattino e temperature massime intorno a 28 gradi. La seconda parte della settimana sembra essere caratterizzata da tempo estivo, con temperature in aumento, ma in linea con la media del periodo. Qualche possibile rovescio temporalesco pomeridiano sui monti e in serata forse anche in pianura. Al momento non sembrano profilarsi ancora ondate di calore, ma è sempre necessario seguire gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Quanche il dial al fas chichirichi son tre ore denante al di, ovvero quando il gallo fa chirichi sono tre ore avanti il giorno. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e vi danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.